140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Cantautore emergente, cowboy in Toscana. Si intitola Soli nel Midwest, il primo album di Giulio Wilson. Giulio Wilson, ovvero il sottoscritto, unico nel suo genere, un po' perché ho utilizzato delle sonorità atipiche, diciamo, nel mondo italiano della musica. Quindi ho usato anche strumenti che solitamente non si usano nei dischi, diciamo, commerciali, no? Quindi ad esempio il banjo, la steel guitar, insomma tutti degli strumenti un po' più internazionali rispetto al pianoforte e violini, che sono, diciamo, caratterizzanti più o meno tutta la musica pop italiana. Invece con dei suoni, diciamo, un po' più americani, ecco, è venuta fuori un musicista un po' unico nel suo genere, ma più che solo musicista, perché poi faccio tantissime cose, quindi sono anche produttore di vino, ho un ristorante, quindi insomma unico nel suo genere, forse anche per questo motivo. Che differenza c'è se ridono con te? E ciò che sei lo ricevi, quello che dà dietro. Pesante e singolare nella produzione esecutiva, che è quella di Enzo Iacchetti. Come mai? Com'è stato l'incontro? Enzo, è stato l'incontro casuale. Io cercavo un riparo, stavo scrivendo dei brani e cercavo una casa discografica. Oggi è difficile entrare a far parte dello staff di una casa discografica se non si ha un curriculum più che decente. E Enzo è riuscito ad ascoltare i brani e quindi è scoccato, diciamo, qualcosa. E poi addirittura lo ringrazi ci sono il tuo cammino si è unito con quello di Bobby Solo, che è singolare perché anche lui è un grande appassionato di America, di alcune atmosfere, però insomma un'altra generazione. Quello come è avvenuto? Ma con Bobby Solo è venuto in realtà in maniera molto naturale, e io stavo appunto cercando delle collaborazioni e mi era venuto in mente quando andavo dalla mia nonna, che conservava tutti i dischi del mio babbo, i 45 giri. Io mi divertivo ovviamente ad ascoltarli, e per me Bobby Solo è sempre rimasto così un'icona, un mito, ecco, lì intoccabile, come un quadro appeso a un muro che rimane per sempre lì. E semplicemente mandai un'email pensando, tanto non mi risponderà mai, figuriamoci Bobby Solo se ora risponde a un ragazzo emergente che sta scrivendo un nuovo lavoro, il suo primo album. Non ci speravo. Invece il giorno dopo mi squilla il cellulare, io ero al pianoforte e questa voce: sono Bobby Solo. E io sono rimasto di ghiaccio. Per cui abbiamo iniziato a parlare, io poi gli ho mandato un provino. Lui comunque è un cultore della musica, anche un po' così, con queste sonorità, quindi lui... Tu gli avevi già mandato un provino da fargli sentire? Sì. Io gli mandai un provino, lui tra l'altro subito, ci siamo entrati in sintonia, mi ha fatto subito tanti complimenti. Ho detto: ma in Italia non c'è nessuno che fa queste cose, quindi io sono rimasto molto bene con lui. Così bene che abbiamo deciso di scrivere un brano assieme. Quindi abbiamo scritto un brano che si chiama Dove corre il tempo. Lui ha scritto la strofa, io il ritornello, poi abbiamo messo il testo e l'abbiamo cantato assieme. E c'è nel tuo album? C'è. Non credi più alle favole, allora dimmi come fai a stare bene come se la vita non bastasse mai. Sogna senza vivere a metà. tanto il passato non torna più. In giro, perché ho visto sul tuo sito, ma anche sulla tua pagina Facebook, anche in posti carini, in mezzo alla gente. Com'è l'impatto di portare un tuo album? Perché poi sai, quando uno esordisce a 20 anni, magari dopo un talent show è una cosa, invece quando te lo sei fatto maturare... Beh, io non vengo da talent show e non vengo da spettacoli, diciamo, da cose del genere che danno tanta visibilità, quindi in realtà mi sto facendo una gran gavetta. Io vado a suonare dove mi chiamano. E, ad esempio, domenica scorsa ero alla Sagra della Fragola a Scarperia nel Mugello, quindi... Però bello, no, bellissima, una festa fantastica. Ho fatto un concertone anche, tra l'altro, tutti che ballavano alla fine, insomma, porto a casa anche un ricordo bellissimo. Però ecco, non scarto nulla in realtà, non me lo posso permettere ora di scartare cose. E non voglio nemmeno, perché a me piace proprio stare a contatto con le persone, anche le cose più popolari mi piacciono tantissimo. E anzi, la mia sfida è quella proprio di arrivare, anche se ci sono magari poche persone. Se dovessi suonare davanti a 1 milione o davanti a 3, io farei lo stesso tipo di show, ecco. Mi piace proprio arrivare a tutti. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Giulio Wilson. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.